è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci per un nuovo inizio di settimana, sempre con voi, con i vostri interventi in diretta all'800 24 0024, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, TG2. Ciancimino lancia nuove accuse a Forza Italia, è frutto della trattativa Stato-mafia, replica Alfano, c'è un piano per destabilizzare il governo, ma è polemica. Il Papa chiede rispetto per i bambini, violati i diritti dell'infanzia, dice anche all'interno della Chiesa, e torna a difendere la famiglia, quella fondata sul matrimonio. Sono arrivati a 8 i morti per valanghe, il governo carcere per chi le provoca, e in Svizzera ha salvato un ragazzo rimasto sotto la neve per 17 ore. Dal 7 novembre non si vedeva più un raggio di sole a Viganella, nelle Alpi piemontesi. Il fenomeno causato dalle alte montagne che circondano il paese. Ora è tornato il sole. E abbiamo anche studio aperto i primi titoli. Allarme valanghe, 8 morti nelle ultime 48 ore. Il governo propone l'arresto per chi le provoca e noi vi mostriamo il filmato shock di un video amatore. Ecco come un gesto irresponsabile può provocare stragi. Violentata in pieno centro a Roma da un artista di autobus, la denuncia è di una ragazza straniera. I primi accertamenti confermerebbero lo stupro e caccia all'uomo alla guida del mezzo. Una ventenne siciliana è finita in coma per aver mangiato una bistecca con troppi coloranti. La denuncia del papà, in quella carne c'era una concentrazione enorme di solfiti. Attenti ai macellai senza scrupoli. Ancora bufera sulle. Siamo qui 18:38, 800 24 00 24. Per alcuni è stato il congresso della svolta, della moderazione, per altri invece non è cambiato niente. Stiamo parlando di che cosa? Del congresso dell'Italia dei Valori che si è concluso ieri a Roma. Io mi sono divertito come un pazzo, c'erano dei personaggi surreali. Insomma, il primo che possiamo citare è un funzionario dello Stato, sarà pure in aspettativa, sospeso, non lo so, un funzionario dello Stato, si chiama Gioacchino Genchi, il quale, insomma, cosa ha fatto Gioacchino Genchi? Ha dato fiato pubblico sul palco di un congresso di un partito a tutta la teoria dietrologica che c'è intorno a Berlusconi e alla statuetta di Piazza del Duomo. Provvidenziale è arrivata quella statuetta, quella miracolosa statuetta della Madonnina del Duomo, che forse il miracolo più grande che ha fatto è stato quello di salvare Silvio Berlusconi dalle dimissioni che sarebbero state imminenti. Io non entro nel merito della dinamica di quell'aggressione, lo stanno facendo tanti giovani che su YouTube si stanno esercitando a vedere quel lancio, rendersi conto che qualcosa di quel lancio non poteva essere vera. Non poteva essere vera. E poi il mago Silvan, la pantomima del fazzolettone di Berlusconi. E abbiamo assistito a quella pantomima che ha dell'incredibile, perché in qualunque servizio di scorta la personalità va appresa immediatamente e va portata via dal luogo dell'aggressione per impedire la reiterazione, per impedire l'uccisione della scorta e di tante persone inermi che sono presenti. E questo non è avvenuto. E noi abbiamo visto l'uscita di quel fazzolettone enorme, quel fazzolettone nero, che sembrava il fazzoletto da Silvan, da cui sembrava dovesse uscire il coniglio, da cui sembrava dovesse uscire il colombo. E la pantomima che si è recitata là, di quello che non è stato preso e cacciato in macchina via, gli hanno consentito di fare quello che voleva, con la recita, quel fazzolettone enorme, perché nelle dimensioni il Presidente del Consiglio ama scegliere accessori inversamente proporzionali alla sua statura. Certo, poi bisogna anche considerare che un funzionario dello Stato, anche se sospeso, in aspettativa, ed è protagonista, insomma, di vicende che si intrecciano il complottismo più sfrenato, il cerottone di Berlusconi. E dopo il viatico, i denti rotti, la prognosi, non si capisce quali siano stati questi danni. La lettura del bollettino medico sembrava di vedere Alvaro Bazan con la convalescenza del povero Papa morente, ma poi si è ripreso. Lo abbiamo visto in una foto, col cerottone, un cerottone enorme, delle stesse dimensioni del fazzolettone della microspia. E dopo il fazzolettone è uscito e non si vede niente. Sembra meglio di prima, se di meglio si può parlare parlando di Berlusconi. Il congresso moderato dell'Italia dei Valori, una cosa da ridere, anche perché l'ex leader dei giovani dell'IDV ha perso a questo congresso la leadership, si chiama Paola Calorenne, e sentite un po' prima del congresso cosa ci raccontava a proposito di Berlusconi e del sesso. La strada più facile non è la più giusta, e mischiare politica e sesso è un abuso di potere. Se è vero quello che dice la signora Berlusconi, che il premier è un uomo malato, sessuofobico, spinto da impulsi irrefrenabili, allora le consiglio la castrazione. E poi abbiamo il nostro amato Barbato, il deputato con i boccoli biondi, il quale è totalmente impazzito durante il congresso, sentitelo. E libertà significa soprattutto in questo paese, dove ogni giorno ci tagliano un pezzo di libertà. Ci tagliano la libertà di avere un posto di lavoro, ci tagliano la libertà di avere un ambiente sicuro e ci propinano le centrali nucleari. Ci tagliano la libertà quando ci negano il diritto alla sanità. Ci tagliano la libertà quando ci tolgono una scuola pubblica libera e aperta a tutti, perché vogliono una scuola che sia consentita solo ai ricchi e che ha i soldi. Questo è il tipo di partito che oggi voglio, e per questa ragione io, che sono un allergico alle tessere, da oggi mi iscrivo all'Italia dei Valori. Ma la più bella di Barbato è quest'altra, sentitela. Voglio essere vincolato ad un'idea, voglio essere legato alle idee di Di Pietro, al modello di Di Pietro, allo stile di Di Pietro, al modo di far politica, di fare come fa Di Pietro. Però da uomo libero, voglio farlo da uomo libero, perché sicuramente non sarò mai uno che lecca il culo a Di Pietro, sarò sempre infedele all'uomo Di Pietro, soprattutto per una ragione, perché sono uno che ama la libertà. Io amo la libertà, amo la libertà. Va bene, non so che dire, perché Barbato doveva essere, quello che avete appena sentito, l'unico oppositore di Pietro a questo congresso. È finita naturalmente con l'acclamazione di Di Pietro, eccetera, eccetera. Il sindaco di Salerno, De Luca, il quale ha una strana teoria ripetuta anche dallo stesso Di Pietro, forse è il motivo per cui poi alla fine Di Pietro ha dato il sostegno a De Luca. O vinco io, o vinciamo noi, oppure vince la camorra. Ce l'ha anche detto in diretta qui a Radio 24, credo che fosse venerdì scorso, giovedì scorso, quando è intervenuto. Io credo che non possiamo non combattere insieme questa battaglia. Veramente l'alternativa che è davanti a noi è drammaticamente pesante. O una grande coalizione, o un sussulto morale di libertà, o un movimento di liberazione, o lasciamo la Campania nelle mani dei casalesi. Siamo in diretta alle 18.46 con la Zanzara, che è lo spazio per i vostri interventi, all'800 24 0024. Claudio da Roma, buonasera. Buonasera dottore. Senta, riguardo alle dichiarazioni di Genchi, anch'io mi sono visto su YouTube un po' dei filmati che possono essere presi da vari punti e quindi danno una sensazione diversa. Però la cosa che mi ha colpito è solo quello sui tempi in cui la scorta ha preso Berlusconi e l'ha messo in mano. Io mi sono visto un filmato di qualche anno fa in cui ci fu l'attentato a Reagan, e lì è stato un attimo, è come se è sentito un colpo di pistola, Reagan stava in macchina e è sparita la macchina. Sì, Reagan, sì. Reagan. No, quello che mi mette un po' di dubbio è solo questo, perché poi uno può usare un fazzolettone nero, un fazzolettone bianco, Non ho capito qual è il suo dubbio. Dubbio è sulla prontezza della scorta, cioè come sono addestrati questi poliziotti, come guardi, aveva preso la botta in faccia, devono metterlo in mezzo. Sì, Claudio, io non volevo tornare nel merito della vicenda, però guardi, il rapporto tra Berlusconi e la scorta è un rapporto un po' diverso tra quello che c'è tra un capo di governo normale e una scorta. C'è un rapporto in cui sostanzialmente Berlusconi può fare quello che vuole, certo rispettando alcune cose, per carità, però senza troppe dietrologie. Quello che è successo quel giorno in Piazza del Duomo è la dimostrazione di questo. Poi lei lo può giudicare una cosa positiva, negativa, non lo so, però secondo me c'è questo, non c'è nulla di particolarmente nascosto. Massimo da Caserta, buonasera. Lucio da Verona. Buonasera. Allora, caro Cruciani, John Terry, capitano della nazionale inglese, non può più essere capitano perché ha un amante. Sì. Beh, attenzione, non è proprio così. Sì, ha l'amante che è la moglie di un calciatore. Ah, ecco, è la moglie di un suo ex compagno. No, vabbè. È che tutti quelli che hanno l'amante non possono fare. No. Però, vabbè, insomma, le porto questo esempio per farlo annoiare. Allora. Una presentazione di un libro che si chiama L'unto del Signore. Il giornalista si chiama Ferruccio Pinotti. Sì. È un giornalista qui di Verona. Che sì, lo conosco bene. Lo conosco anche sul Corriere della Sera. Come dice? Lo conosco bene. Ah, lo conosce bene. Allora, questo signore ha detto di fronte a centinaia di persone che il signor Berlusconi, quando era sposato con la prima moglie, ha fatto abortire 3 donne. Ha fatto i nomi anche, la seconda moglie che l'ha portata in Svizzera, che era la sua amante, un'altra, non so se fa i nomi, ma l'ha fatti lui, è la Dell'Era, e l'altra la Sabrina Salerno, le ha fatte abortire mentre era sposato. Ma secondo lei il cardinale Ruini andrebbe ancora a cena se sapesse queste cose? È che voi non le dite, no? Guardi, non lo sa nessuno. Guardi, cioè, Lucio, io... Come dice? Sì, no, mi ascolti un attimo. Io non so cosa abbia detto Ferruccio Pinotti. Sia chiaro che quello che dice Ferruccio Pinotti, ne risponde Ferruccio Pinotti. Lei lo riprende, ce lo riferisce, va benissimo, bisogna riferire le cose esattamente come sono state dette, però, perché su cose così delicate non è che si può usare l'accetta, per cui non le so dire niente, Lucio, guardi. Lo so, chi le due attricette? No, non conosco le due attricette, quelle non le conosco, sì, so chi sono. So anche che sono sempre girate delle voci su questo punto. Se Ferruccio Pinotti ha scritto quelle cose, se ne assumerà la responsabilità. Io non so, le ha scritte in quel libro? Io ce l'ho quel libro, evidentemente non l'ho letto a fondo perché non ho molto tempo per leggere tutto. Per cui non so, al di là di questo, dove vuole arrivare lei? Perché che alcuni... No, beh, insomma... Se queste cose, sì, scusi, Lucio... Signore che è contro l'aborto addirittura, no? Ma sì, Lucio, lei dà per scontato che queste cose siano vere per fare questo ragionamento, per cui... E lui ha dichiarato di fronte a centinaia di persone ha sentito queste signore, queste signore hanno confermato questa notizia, le hanno confermato, perché poi una delle due ha detto, ma io l'ho già detto a tanti giornalisti questa cosa, però nessuno le pubblica, no? Perché è evidente che nessuno le pubblica. Ma le ha pubblicate lui, no? Le ha pubblicate lui? L'ho detto lui? No, non le ha pubblicate. Non l'ha scritto in questo libro? Se vuole le do il sito per andare a... No, ma conosco la persona. Guardi, quando è che ha pronunciato queste frasi? Quando è che ha detto queste cose, Ferruccio Pinotti? Per non farlo più capitano della squadra della nazionale. Sì, ma lasci perdere Terry adesso, Lucio. Io voglio dire... No, ma è una battuta. No, ho capito. Quando ha sentito Ferruccio Pinotti dire queste frasi? L'ho sentito il mese scorso. Lui ha presentato il suo libro e io sono andato qui Ma ho capito il suo ragionamento. Se fossero vere queste cose, c'è un'incoerenza tra il comportamento, diciamo, privato di Berlusconi e il comportamento pubblico, la Chiesa, eccetera, eccetera. Ho capito bene. Grazie. Lucio da Napoli, buonasera. Buonasera, salve. Io invece volevo intervenire a proposito di De Luca, delle affermazioni sue di De Luca, ma anche sue di Cruciani. Io credo che De Luca non voglia esattamente dire che la... Anzitutto mi lasci dire che una parte di persone per bene di Napoli ci sono ancora, nonostante i deficienti ieri di Udine, insomma, finalmente andiamo, ovviamente la parte di sinistra, diciamo, democratica di Napoli, è contenta finalmente di andare a votare una persona non andando a votare il meno peggio, ecco. Lucio, guardi, non ho capito dove vuole arrivare. Lei è un simpatizzante di De Luca, ho capito. Allora? No, sono un simpatizzante, però se lei mi lascia Non lo so, sta dicendo, i napoletani di ieri a Udine, poi De Luca, siamo contenti di andare a votare De Luca. Beh, allora? Sto dicendo che quando De Luca si riferisce all'alternativa che secondo lui è di stampo camorristico, c'è da andare un po' più a fondo. Lui si riferisce anche all'alternativa uscente nell'ambito del Partito Democratico. Non lo può dire chiaramente, ma si sa benissimo che noi siamo stati con la passatura fino ai primi piani per colpa anche dell'amministrazione. Lei questo voleva dire poco fa. Non lo so, guardi, a che cosa si riferisce. Secondo me posso dire no, io perché ma ci non vivo sto a Napoli. Non sto parlando della spazzatura, Lucio, sto dicendo che la spazzatura è stato il culmine. Sì, ho capito, io sto dicendo che De Luca si riferisce all'alternativa di adesso, non a quella che c'è. No, io le dico che non lo può dire ovviamente, però lui ovviamente se fino all'ultimo momento non sono riuscito a fare le primarie, è perché Bassolino fino alla fine De Luca non lo ha voluto appoggiare. Ma questo qua è chiaro, lui sì. Lui avrebbe voluto mettere una persona sua. Ho capito, ma non è che da una parte, mi scusi, anche se si fosse riferito al centrosinistra, secondo me non si riferiva al centrosinistra attualmente al governo, diciamo, in Campania, ma si riferiva semplicemente al suo avversario futuro, al suo avversario dei prossimi mesi, cioè Caldoro. Ma è un ragionamento assurdo, si rende conto? Da una parte ci sarebbe la camorra, i casalesi, tutto il male possibile, e dall'altra parte la candidatura di gente per bene come quella di De Luca sostenuta da Di Pietro. È una posizione assurda, una posizione manichea che tra l'altro fa torta all'intelligenza di De Luca, secondo me, o no? Poi siamo in campagna elettorale, si può dire di tutto, per carità. Non si può dire di tutto. Cosentino è stato, se non fosse per l'immunità... Scusi un attimo, Lucio, ma lei come fa a dare a Cosentino dell'uomo affiliato al clan dei Casalesi? Abbia pazienza. No, ma è questo che mi rifiuto di... Allora, di che parliamo? Mi scusi un attimo, lei però si vede che da queste parti non ci vive. No, ma io faccio un ragionamento logico, allora, non faccio un ragionamento logico, è un ragionamento logico. Non è giusto in maniera assoluta. No, non è giusto, però... non è giusto in genere, non è che non è giusto, non è corretto, è un ragionamento che non ha senso. Il processo anche perché, mi scusi, anche perché la maggior parte della campagna da chi è amministrata? Ma io gliel'ho detto, cioè, prima, l'unica persona per bene, per bene nel centro-sinistra è De Luca? Senta, io, lei mi ha interrotto proprio nel momento in cui le dicevo che De Luca non si rivolgeva soltanto. È ovvio che chi sale al potere in Campania viene a contatto con certe realtà. Allora, speriamo che lui, se sale, è uno di quelli che riesce a farsi... Ma questo lo speriamo tutti, Lucio. La cosa che è inaccettabile... Non c'è tempo. Può darsi, ma non c'è tempo. Claudio, provincia di Vicenza. Buonasera, Cruciani. Io riprendo un attimino questo discorso per fare una considerazione veloce. De Luca dice che se non viene votato lui, dall'altra parte ci sono i casalesi. Di Pietro continua a dire che Berlusconi è un mafioso, lo dice chiaro e tondo. Ma dobbiamo ricordarci una cosa, che vota è il popolo. E allora anche tutto il popolo è mafioso. Cioè, questa mia considerazione. Allora, Claudio, voleva... questo non c'entra nulla. Tra l'altro, il moderato. Un attimo solo, Claudio, devo dare la linea al giornale radio. Il moderato Di Pietro oggi dice: vogliamo fornire un'alternativa di governo, quello piduista, fascista, e se fosse vero quello che dice Ciancimino oggi, paramafiosa del governo Berlusconi. Non è solo Ciancimino che lo dice, ma sono in tanti. Di nuovo in diretta con la Zanzara, 19:18, 800 24 00 24. Andiamo diretti a sentire come ci presenta la giornata al TG3. Massimo Ciancimino al processo Mori. Mio padre mi disse che Forza Italia era il frutto della trattativa tra Stato e mafia. dura la reazione del PDL, solo fango, Dell'Utri lo denuncio per calunnia, Alfano noi combattiamo la mafia, è un piano per delegittimarci. Blocchi stradali a Napoli dei lavoratori Fincantieri, in corteo a Roma quelli della Merloni, Scaiola 10 proposte per Termini Imerese. Benedetto XVI preannuncia una lettera pastorale ai fedeli irlandesi, alcuni membri della Chiesa ha detto hanno violato i diritti dell'infanzia. 8 vittime delle valanghe, trovato il corpo di un disperso, linea dura del governo, carcere per chi non rispetta le regole della montagna. Ritrovato a Roma uno scheletro composto dalle ossa di 5 persone diverse, un folle o un serial killer stasera, a chi l'ha visto. Crepe impianti in una norma, classi strapiene, il TG3 in un istituto tecnico di Castellammare di Stabia, dove studiare può essere anche pericoloso. Storia dell'arte minore nei licei, cancellata negli istituti professionali, anche quelli per il turismo, sono gli effetti della riforma Gelmini. Andiamo a sentire Sky TG24. Giancimino, nuove accuse, Forza Italia nacque dal patto Stato-mafia. Alfano replica, c'è un piano per colpire l'esecutivo Dell'Utri pronto a querelare. Valanghe, 8 i morti nel weekend, ecco le follie fuori pista nel modenese. Carcere per chi provoca l'Isla Vine, in arrivo un emendamento del governo. Fiat Scaiola, ci sono offerte per Termini Imerese, operai in sciopero alla Merloni. Caso Irlanda, il Papa condanna i preti pedofili, hanno violato i diritti dell'infanzia. Iran, Khamenei minaccia cazzotti all'Occidente, preoccupazione da Unione Siete Europea. Sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita? Ma non ci toglieranno mai la libertà! Voglio essere vincolato ad un'idea, voglio essere legato alle idee di Di Pietro, al modello di Di Pietro, allo stile di Di Pietro, al modo di far politica di fare di, come fa Di Pietro. Però da uomo libero, voglio farlo da uomo libero, perché sicuramente, sicuramente non sarò mai uno che lecca il culo a Di Pietro, sarò sempre infedele all'uomo Di Pietro, soprattutto per una ragione, perché sono uno che ama la libertà, io amo la libertà, amo la libertà! Barbato, Italia dei Valori, uno dei protagonisti di questo congresso, come Braveheart che abbiamo ascoltato all'inizio, il deputato con i boccoli bioldi, quello che va davanti a Pomigliano d'Arco, ma come ci raccontano le cronache dei giornali, va anche nelle discoteche romane. Quando si saranno spenti i riflettori dai congressi, delle elezioni, noi in Campania ci ritroveremo con i problemi di sempre, rischiamo di ritrovarci in una grande solitudine. Troveremo davanti a noi i giovani dei quartieri della paura, di Scampia, di Secondigliano, troveremo i padri di famiglia che dopo 30 anni di lavoro sono chiamati, costretti a piegare la testa davanti a un potente per cercare di dare un lavoro a una figlia, a un figlio. Troveremo quelli che ogni mattina dovranno decidere se resistere alla camorra e rischiare la vita dei figli o tenere alzata la testa. Io sono fra quelli che non si sono arresi. Vi chiedo di aiutarmi a fare in modo che in Campania non muoia anche la speranza. Vi ringrazio, buon lavoro. Questa è la commedia del sindaco di Salerno che è andato a Canossa per farsi appoggiare da Di Pietro. Come protagonista del congresso dell'Italia dei Valori è stato il pinguino Belisario. È il pinguino Belisario che si è offerto volontario sulla pentina dall'aria, sai che mi sarà il pinguino Belisario. Come dimenticare, era il giorno di apertura del congresso, diciamo congresso dell'Italia dei Valori, e il capo dei senatori Felice Belisario cosa dice? Dice che la destra, siccome doveva essere il congresso della svolta moderata, è come il gas nervino. Che su questo governo ci possa essere una larvata intesa, non ci può essere con un governo che protegge interessi piruisti e fascisti. La destra italiana oggi è come i gas nervini, addormenta le coscienze con una informazione devastante a pagamento per ucciderle in modo indolore. E questa è la mission ulteriore che l'Italia dei Valori deve avere. È il pinguino Belisario che si è offerto volontario sulla pentina dall'aria. Non lo possiamo certamente dimenticare Belisario, ma c'è un altro protagonista che abbiamo visto e sentito nel weekend, soprattutto weekend televisivo. Il protagonista è Walter Veltroni, la nuova vita dell'ex segretario del Partito Democratico, ormai una vita votata alle comparsate televisive o sul libro o sul calcio o sulla vita privata e sentimentale, sul basket, perché è stato anche protagonista di una telecronaca di una partita di pallacanestro di recente. È stato per 7 anni sindaco di Roma, vicepresidente del Consiglio, ministro della Cultura, segretario del DS e poi del PD, Walter Veltroni. Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto. Caro Walter, innanzitutto grazie di aver accettato il mio invito. Grazie a te. E questo era Veltroni, presentato da Barbara D'Urso nel pomeriggio della domenica di Canale 5. Un'intervista, come la possiamo definire, molto intima, in cui la D'Urso ha chiesto soprattutto a Veltroni delle cose che riguardano la sua vita privata, il fidanzamento, il primo bacio, qualcosa anche di politica, di calcio, poche cose di politica per carità, il Veltroni ballerino per esempio. Senti, tu amavi moltissimo ballare, no, da ragazzino. No, io ho ballato fino al maggio del 67, quindi insomma fino ai 12 anni ho ballato, ero bravissimo, ero il miglior perché? Tacco di Roma, come si dice. E perché il miglior tacco di Roma ha smesso, scusa, quel giorno? Beh, ho capito che non avevo futuro. No, non lo so, adesso scherzo, maggio 67 lo dico così per dire, ma no, ballavo nelle feste, non sono mai andato in una discoteca in vita mia, purtroppo, per fortuna, non lo so. Voglio vivere però nelle così, feste ero in fronte. E poi c'è un Veltroni che racconta il primo bacio, sentite. Ti ricordi il primo bacio? Sì, a dir la verità sì. Mi ricordo, era all'uscita da un cinema dove facevano un film che si chiama Harold and Maud. E che ti è rimasto impresso ovviamente. Eh beh sì, tra i miei preferiti. Ovviamente. E quindi? E lì è successo il fattaccio. Il fattaccio più simpatico. Beh, devo dire che sono molto vicino in queste ore a Giampiero Mughini, a Piero Stellino, a Cristian Rocca e ad altri tifosi della Juventus, perché a un certo punto Veltroni in questa intervista con Barbara D'Urso ha terrorizzato tutti gli juventini d'Italia. Sentite, si è proposto come presidente. Hai mai pensato di cambiare lavoro? Escluso il presidente della Juventus. Dice. No, cioè, guarda, vorresti fare il presidente della Juventus? Chi non vorrebbe fare il presidente della Juventus? Soprattutto in questo momento verrebbe una gran voglia. Voglio vivere così, con la sole in fronte. Ma alla fine, diciamo la verità, ognuno può fare quello che vuole, figuriamoci. Può andare a parlare da Barbara D'Urso, può raccontare della propria vita privata, lo fanno tutti, anche Brunetto, l'abbiamo detto più volte. Può raccontare come si fa l'amore, il primo bacio, come ho conosciuto mia moglie. E l'amore per la propria squadra del cuore, i balli, le danze quando si era giovani, quando si cresce, eccetera eccetera. Non sarò mai uno che lecca il culo a Di Pietro, sarò sempre infedele all'uomo Di Pietro, soprattutto per una ragione, perché sono uno che ama la libertà. Io amo la libertà, amo la libertà. Franco Barbato, il nostro idolo di oggi, 800 24 00 24, Paolo da Macerata, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io praticamente volevo intervenire, rifacendomi all'inizio della trasmissione, quando lei ha parlato e ha fatto sentire soprattutto l'intervento di quel signore lì dell'ITV, di cui tra l'altro... Sì, veramente non è un signore dell'ITV, Gioacchino Genchi è un ex, non so se sia ex insomma, funzionario, diciamo, di polizia, per cui... Rifacendomi al discorso del... Non un passante qualsiasi, insomma. Certo, vabbè, comunque, diciamo, io volevo dire questo, rifacendomi a quello che è successo a Berlusconi a dicembre, A me una cosa solo mi ha un po' lasciato così un po' perplesso, cioè io quando seppi la notizia andai a vedere su internet cosa fosse successo e ho trovato moltissimi filmati postati su internet da più svariate persone, tra cui anche dalla rete televisiva, su cui si vedeva Berlusconi ripreso frontalmente nel momento in cui viene colpito. Cioè quello che mi ha reso perplesso è questo: se io a lei le dessi un colpo tale da rompergli dei denti, da rompergli un setto nasale, io penso che la sua testa dovrebbe perlomeno muoversi all'indietro per la forza che io le do nel colpo che lei riceve. La testa di Berlusconi non si è mossa di un millimetro. La cosa mi ha lasciato un po' perplesso, perché cioè mi sembra un po' una cosa innaturale, e le guardi, le assicuro che l'ho vista centinaia di volte questa immagine. No, io penso che lei, per carità, ha tutto il diritto di farlo, ma è un po'... ha un po' una sindrome che è quella della dietrologia, del complotto, che dietro una verità ufficiale c'è sempre qualcosa di nascosto, per carità è qualcosa di legittimo, però in questo caso non mi sembra che ci siano i presupposti minimi. Davide, provincia di Bari. Pronto, buonasera. Pronto, sì, abbassi la radio oppure la spenga, Davide. Sì, la abbassa subito. No, io purtroppo faccio parte della schiera dei passanti, non di quelli che diciamo ne capisce molto, però ascolto, e nell'ascoltare quando sento gli interventi di vari politici, soprattutto in televisione, sento questi interventi che sono battaglia, libertà, vittoria, cioè l'utilizzo della politica, che politica significa, almeno per quanto ne so io, l'utilizzo delle nostre leggi, no? Dei nostri diritti, dei nostri doveri, cioè un qualcosa che è normale, cioè l'utilizzo della politica in maniera immorale per farne un concetto proprio, cioè come un'associazione. Non ho capito niente, Davide. Per quello le ho detto, faccio parte dei passanti, magari. No, ma non è questione di fare parte dei passanti. Lei dice che si usano troppe parole demagogiche, prive di significato, troppe parole generiche, questo vuole dire lei? Sì, oltre a questo. E poi innanzitutto il veto da parte dei politici di andare in trasmissioni per fare audience, trasmissioni per coprire. Ci vorrebbe un veto, secondo lei? Sì, non servono a nulla. Sì, no, ma no, ripeto, Davide, noi abbiamo fatto l'esempio di Veltroni perché è strepitoso da questo punto di vista. Guardi, io stavo in attesa. È una sindrome comune a molti politici, praticamente non si fa altro che è essere normale, presenti nei talk show. Non serve a nulla. Cioè, il discorso è che se la, per esempio, la Santa Chè, io non entro nello specifico, no? Però la Santa Chè è una conseguenza. Sta sempre in televisione e poi invece il ministro Alfano mi dice che per non togliere il nodo Alfano, no? Per non togliere spazio e tempo al capo del governo difendersi per far politica, giustamente, e fa il nodo Alfano, lo rimanda. Il nodo Alfano, no? Non l'avevo mai sentito, il lodo Alfano, non il nodo, sì, Alfano. Ma nodo io gliel'ho detto, io mi sono coperto le spalle dicendole proprio che la mia ignoranza è... No, ma non è questione di ignoranza, Davide, solo che era curioso sentire quello. Il nodo Alfano o il lodo Alfano. Il fatto che grammaticalmente oppure non abbia le nozioni. No, ma non è, io non la sto accusando di nulla, era per chiarire, siccome lei mi dice il nodo Alfano, non è questione di grammatica, il nodo Alfano o il lodo Alfano. Ho capito. Voglio dire, la conoscenza in sé per sé, però voglio dire, se la Carfagna, la Santa Chè, ipotesi, ripeto, non sono di nessuna corrente politica, anzi preferirei comunque... Io ho capito, Davide, quello che lei ci sta dicendo. Lei ci sta dicendo che ci sono troppi politici in televisione, e io le do ragione, anche se noi campiamo con i politici in televisione, cambieremo mestiere, cambieremo ragione sociale, non lo so, però è vero. Troppe trasmissioni in cui sono presenti politici, non si capisce perché in un contenitore come quello di Barbara D'Urso o in altri contenitori, per carità, ci debbano essere per forza i politici la domenica pomeriggio. Mi sembra una cosa incredibile. Allora, volevo farvi ascoltare che cosa De Magistris, Luigi De Magistris, qualche giorno fa, il 31 di gennaio, a proposito, prima dell'inizio del congresso dell'Italia dei Valori, a proposito della possibile, poi diventata certa, candidatura di Enzo De Luca, Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, presidente della regione Campania. Sentite De Magistris. In Campania in particolare, dove il centrosinistra è crollato sulla questione morale, bisogna dare un segnale di forte discontinuità, cominciando proprio dalla questione morale. De Luca è tutt'altro che un segnale di discontinuità, non per le sue capacità amministrative che sono in dubbio per come ha amministrato Salerno, ma per le accuse che gli sono state rivolte, quindi per noi è improponibile. Per noi è improponibile, bisogna dire da questo punto di vista che De Magistris, secondo me sbagliando, perché secondo perché l'abbiamo detto la settimana scorsa, la candidatura di De Luca non dovrebbe comportare alcun tipo di problemi, certamente non una sorta di psicodramma che si è creato all'interno dell'Italia dei Valori, ma questi sono giudizi miei naturalmente. De Magistris è rimasto coerente perché poi ha criticato anche ieri, lo potete trovare sui giornali oggi, ieri e l'altro ieri, la decisione di Pietro di schierarsi o comunque di appoggiare De Luca. Cosa bolle all'interno dell'Italia dei Valori? Questa candidatura di De Luca provoca delle crepe o comunque dei malumori, o non si tratta semplicemente di malumori, di opinioni contrarie, perché all'interno di un partito ci possono essere anche opinioni contrarie. Come è stata gestita, insomma, questa vicenda, l'acclamazione De Luca che arriva al congresso per fare le dichiarazioni spontanee? Sonia Alfano, eurodeputata dell'Italia dei Valori, buonasera. Buonasera. Allora, lei da che parte sta innanzitutto, di De Magistris o di Pietro? Perché al di là del fatto che i giornalisti spesso semplificano le cose, questo insomma, lei lo sa, però sì, ci sono due correnti di pensiero all'interno del partito e non solo all'interno del partito, dei movimenti che sostengono l'Italia dei Valori o che sono vicini all'Italia dei Valori. Quelli che dicono Di Pietro ha commesso un errore e altri che dicono Di Pietro è stato uno pragmatico, si doveva per forza appoggiare De Luca perché era l'unico modo per battere il centrodestra. Dunque, io, preso atto della difficoltà, è ovvio che insomma questa era una decisione molto difficile con delle responsabilità enormi da assumere, però preso atto di questo io non la condivido questa decisione e non appoggerò assolutamente la candidatura di De Luca e non mi adopererò per una sua eventuale elezione. Perché, cioè, non farà campagna elettorale per De Luca? Assolutamente no, non la condivido e ripeto, io poi tra l'altro sono un indipendente esattamente come Luigi, sì, per cui ovvio che le nostre riflessioni all'interno di un partito che valuta insomma con le tessere, come giusto che sia, il nostro parere non è vincolante, giusto che non lo sia, però non possiamo fare a meno di esprimere il nostro dissenso. Senta, questo dissenso come si manifesta? Perché in realtà qui abbiamo assistito a qualcosa che spesso rimproverate a Berlusconi, cioè l'acclamazione, non solo nella votazione per Di Pietro presidente, là ci può stare, eccetera, ma anche nella vicenda di De Luca in realtà. Perché, ma insomma, guardi, io le dico molto chiaramente, molto onestamente, anche per onestà intellettuale. Io ho saputo di De Luca la stessa mattina di sabato. Che sarebbe andato al congresso, dice lei? Esatto, sì, l'ha annunciato Di Pietro. Guardi, io ho fatto il mio intervento, credo, intorno alle 10.45. Sì. E subito dopo il mio intervento ha parlato Di Pietro. E Di Pietro ha spiegato là, nel corso del suo intervento, e ha addirittura detto in quel momento che lo aveva telefonato e che ancora non aveva avuto una risposta da... Dunque nessuno, in pochi sapevano che sarebbe andato a parlare al congresso. Di sicuro io non ero tra quelli, e quando è arrivato De Luca io mi sono alzata e me ne sono andata, perché ritengo che la questione morale non possa assolutamente essere soggetta a sconti. Poi tra le altre cose noi abbiamo sempre detto che i processi non si fanno né in televisione né nei salotti, ma che si fanno nelle aule dei tribunali. Per cui, per coerenza, ribadisco questo concetto che è mio, lo faccio mio, lo sottoscrivo, sì, e che non si può assolutamente candidare uno come De Luca. Tra le altre cose, sì, io faccio un'altra domanda. Secondo quello che sono i nostri criteri, i nostri contesti, uno come De Luca non potrebbe iscriversi all'Italia dei Valori, di conseguenza quella non era la sua assemblea. Diciamo che non si credo che non si voglia iscrivere all'Italia dei Valori. No, ho fatto un esempio, cioè l'acclamazione. Ah, dice lei, è stato acclamato qualcuno che non poteva nemmeno iscriversi certo, all'Italia dei Valori. Certo, senta, ma questo suo dissenso adesso cosa ci fa lei? Niente, vabbè, in dissenso, secondo lei in dissenso, quanta percentuale c'è dell'Italia dei Valori, diciamo, non dico solo tra i deputati, ma anche tra gli elettori, insomma, come si manifesta questo dissenso? Io sto notando tantissime dichiarazioni di dissenso, ed è giusto che sia così, soprattutto in rete. Io ho sempre detto che la rete poi alla fine fa la differenza, in rete la verità esce fuori, ed è giusto che sia così, perché io credo che questa scelta incoerente si possa rivelare poi un passo falso, che possa costare qualche punto percentuale alle elezioni, qualche punto percentuale che verrà a meno agli elettori di Italia dei Valori, e non mi sento di dare torto a queste persone. Cioè, non mi dica che lei dirà agli elettori dell'Italia dei Valori della Campania di non votare De Luca, o sì? No, io non dico questo. Cioè, non farà campagna contraria, non farà campagna a favore, ma non nemmeno contraria, però. No, io andrò a sostenere qualche candidato in qualche provincia, ma non sosterrò assolutamente De Luca. Non lo sosterrò assolutamente. No, questo l'ho capito. Credo che il mio giudizio sia abbastanza chiaro. No, ma è chiarissimo. Non lo sostengo. Senta, qui c'è anche un altro, io lo chiamo imbroglio, ma così, imbroglio politico, non imbroglio per legale, diciamo. Perché, insomma, De Luca, noi l'abbiamo intervistato venerdì, e dice, va bene, io ho raggiunto un accordo con Di Pietro, e l'accordo con Di Pietro è quello che io mi dimetto se vengo condannato in via definitiva. Però c'è un problema. Di Pietro, da quello che leggo, lo scrive anche Travaglio ieri sul Fatto, dice, sembra che non sia d'accordo sulla condanna definitiva uguale dimissioni, ma primo grado uguale dimissioni. Secondo lei c'è un malinteso in questa... No, primo grado deve essere uguale dimissioni, perché se noi abbiamo... Allora... Però da questo punto di vista, scusi, la interrompo un attimo, De Luca è stato molto chiaro. Noi ha detto, solamente se condannato in via definitiva mi dimetto. Primo grado, infatti, non ci pensa nemmeno. Infatti io le ho espresso il mio dissenso in maniera determinata proprio per questo. Fermo restando che non condivido uno come De Luca, che ha dei modi ed un'arroganza tale nell'esprimere i suoi concetti che non condivido. Però voglio dire, io sono stata quella che ha chiesto, per fare un esempio, le dimissioni immediate di Cuffaro quando è arrivata la prima condanna, le ha richieste alla seconda condanna, e stiamo parlando di Cuffaro dell'UDC. Dice, per me come fa? Luca, certo. Non fa alcuna differenza. Lei dice, come faccio a usare un metro diverso? No, per quello che... è proprio un problema di coerenza, non possiamo chiedere di essere coerenti agli altri e veniamo noi meno a questo impegno. Eccoci, 19.47 con Sonia Alfano, europarlamentare dell'Italia dei Valori, la quale in maniera molto schietta ci ha detto: io sono contrario alla candidatura di De Luca, mi sono addirittura alzata, questo è un po' esagerato, lei si è alzata quando iniziava a parlare di De Luca, non è mica un mostro De Luca, non è mica il diavolo. Non condivido, io non mi sono proprio presentata sapendo che lui sarebbe venuto, a quell'ora non sono stata in sala. Tra le altre cose, quello che mi chiedo e la mia perplessità è... Beppe Grillo, col suo movimento a 5 Stelle, ha sempre sostenuto, ha sempre difeso Di Pietro. De Luca invece è sempre stato uno che ha attaccato Di Grillo, i modi di Grillo, per cui io non riesco a capirci proprio che cosa c'è che può unire Di Pietro con De Luca, se Di Pietro è amico di Grillo e De Luca attacca Grillo. Ci sono proprio delle cose per me materiali e semplici, senza che non hanno bisogno. Senta, ma fare... lo scambio, forse la ragione è più terra-terra. Magari Di Pietro, come si legge dai giornali, in cambio di De Luca ottiene la candidatura di Callipo, Callipo in Calabria. Già una cosa, l'appoggio del Partito Democratico, e tra l'altro è abbastanza in ambascia, perché dovrebbe svolgere le primarie domenica, non si sa se si svolgono, con lo Iero che è arrabbiatissimo. Perché cerchiamo un incensurato in cambio di un indagato. Non lo so, questo è il vostro partito, mica lo chiedere a me. No, infatti per questo le dico, io non ci sto, non mi rispecchio. Non... Senta, se alla fine De Luca è innocente, e se viene assolto, che succede? Buon per lui, non è che nessuno gli deve chiedere scusa, buon per lui. Solo questo, però voglio dire, la stessa considerazione dovremmo farlo per tanti altri. Io mi sono scagliata su Dell'Utri, su Cuffaro. Se queste persone poi verranno assolte, non per loro. Però non si devono candidare in politica finché non sono libere da ogni gravame, diciamo, giudiziario, non si possono. Sì, assolutamente sì. Poi ripeto, questa è una mia opinione personale espressa da una persona che è stata eletta, tra l'altro, da indipendente, che continua ad essere indipendente perché non sono tesserata. Però ritengo che la coerenza, soprattutto in questo momento, debba assolutamente farla da padrone. Per cui per me, per quanto mi riguarda, mi trovo veramente fuori da questa scelta, e mi trovo... Ma lei, la tessera dell'Italia dei Valori ce l'ha? No, non ce l'ho. E la prenderà? No. Mai? No, mai dire mai. Mai, questo non lo so dire, magari che mi piacerebbe. No, se proprio la devo dire. Allora, se proprio siamo in tema di confidenze, oggi come oggi mi piacerebbe poter fondare un movimento, un partito, perché oggi non ci sono più tante difficoltà, fatto delle cosiddette persone per bene. Io, il mio sogno è vedere in questo partito, oltre a me, Luigi De Magistris, Rita Borsellino, Saro Crocetta, Claudio Fava, metterci Flores D'Arcais, Di Pietro, Travaglio, metterci tutte le persone che a mio parere ovviamente sono per bene. Mi piacerebbe questo. Il partito degli onesti, diciamo. È il partito degli onesti. Lei non lo ricorda forse, ma il partito degli onesti andò a finire malissimo. Fu proposto dalla Malfa quando iniziò Tangentopoli e poi crollò. Ma questo è uno scherzo. Senta, voglio sapere da lei, dato che siamo in tema di confidenza. Sì. Ma stasera che mangia? Stasera sono a festeggiare il compleanno di un carissimo amico. Siamo qui a Strasburgo perché siamo in plenaria. E certo. E oggi è il compleanno di Saro Crocetta. Quindi festeggeremo il Saro Crocetta. Sindaco ancora o ex sindaco? No, ex sindaco. Si è dimesso, per carità, le incompatibilità, altrimenti nemmeno a cena con lei potrebbe andare. No, è incompatibile, poi Saro è uno di quelli che io vorrei all'interno del partito. Ex sindaco di Gela, lo ricordiamo, grazie. Buona dunque, vabbè, non ci ha detto che mangia, ma va al ristorante... non lo so, andiamo al ristorante, ma penso con ristorante... il cibo è molto pesante, io credo che oltre un filetto... Crauti, sta roba qua, birra, crauti. Per carità, già abbiamo qualcosa di pesante da digerire. Evitiamo pure di andare. Senta, ma la storia di De Magistris dei voli, secondo lei, è tutta falsa? La storia di De Magistris del volo privato per tornare a Strasburgo è tutta finta, è tutta falsa? Posso continuare a confessare, visto che siamo in aria? Allora, mi confesso. Dunque, il volo del... Io ho volato per 3 mesi con i voli di linea da Palermo via Roma, via Parigi per arrivare a Strasburgo, perché non ci sono collegamenti diretti. E il mio biglietto da Palermo costava 1.800, 2.100, a volte anche 2.400 euro, eccetera. Se non che un giorno è arrivata una mail proposta da un deputato del PD che ci invitava a dare la propria adesione se volevamo affittare non un jet privato, ma un normale velivolo, tra l'altro rumorosissimo, da 30 posti. Dunque hanno aderito, oltre a me, a De Magistris, alla Borsellina, a Crocetta, ma c'è anche Roberto Angelilli, Barbara Matera, Clemente Mastella, Antinoro, Lavia, Iacolino, tutti i deputati del PDL. Per cui non riesco a capire questo accanimento prima nei miei confronti e poi nei confronti di De Magistris. Capisco che magari da parte di alcuni... Cioè è costato meno, lei questo vuole dire? Costa 1.400 euro, costa molto meno, un risparmio per il Parlamento. Vabbè. Non è costato, costa molto meno. Tra le altre cose, quello che molti non sanno, la ringrazio per darmi questa opportunità, insomma così vediamo, è che non ci sono voli low cost per Strasburgo. Per Bruxelles noi prendiamo i voli normalissimi di linea, ci mancherebbe. Sì. Però per Strasburgo, per esempio, le dico quello che facevo io prima. Mi alzavo alle 4 del mattino per prendere il volo da Palermo alle 6, facevo Palermo-Roma, Roma-Parigi o Roma-Marsiglia o Roma-Nizza e poi da una di queste 3 destinazioni Strasburgo, quindi 3 scali. Per una modica cifra che ha toccato la soglia anche di 2.300-2.400 euro. E dunque? Ne pago 1.000 in meno con un velivolo che è ad elica. Però bisogna prenderlo in comune, diciamo, per risparmiare, questo è evidente. Siamo 30, sì, siamo 30. Siamo 30 in questa straordinaria combriccola, ripeto, ci sono, oltre a De Magistris e Alfano, ci sono deputati del PD come Milana, Cozzolino, Borsellino, Crocetta, ma ci sono anche Gardini, Matera, Angelilli, Angelilli del PDL, ecco. No, ma glieli elenco tutti. No, va bene, ma non c'è problema, nessuno scandalo, ma noi non l'avevamo sollevato noi questo scandalo, per carità. No, ma è giusto chiarire, lei mi dà l'opportunità e la ringrazio. Certo. Va bene, grazie. Grazie a lei, grazie. Non si appesantisca troppo col cibo. No, ho tanto da digerire, abbastanza pesante. La linea deve essere sempre perfetta. La ringrazio. 1954 800 24 00 24. Ci vuole chiarire qualcosa Ferruccio Pinotti. Buonasera, che ci ha chiamato dopo l'incursione dell'ascoltatore. Ciao Ferruccio. Grazie. Allora, io ho ascoltato l'intervento di un ascoltatore prima, anche un po' distratto, perché ha cominciato a parlare a un certo punto di Berlusconi, aborti, cose, eccetera. È vero che tu hai parlato di quelle cose in una convegno, in una presentazione di un libro a Verona, oppure no? No, io volevo assolutamente smentire questa persona che ha fatto delle affermazioni anche trovo gravi. Io certamente mi sono occupato del Premier in un libro anche recente, L'unto del Signore, ma l'ho fatto in termini assolutamente corretti, educati, come nel mio stile. I miei sono libri di analisi. Sì, no, ma certo, questo non è in discussione. Sono libri, diciamo, di gossip. Di odio personale o politico o di gossip. Tutto qua. Per cui quelle frasi che l'ascoltatore che ha detto di essere stato presente a questo convegno, a questa presentazione, tu non le hai mai pronunciate, cose no, che riguardano no. La vita privata di Berlusconi, no, le smentisco, donne, aborti, eccetera. Non mi interessano assolutamente, addirittura nell'ultimo libro, L'unto del Signore, che parla di rapporti sì. tra Berlusconi e il Vaticano, quindi ci poteva essere spazio per tematiche di questo tipo, non ne ho assolutamente trattato. No, no, lui infatti non parlava del libro, parlava di frasi dette durante questa presentazione del libro che ha ascoltato. Siccome era abbastanza circostanziato anche nei nomi questo ascoltatore, mi era sembrato piuttosto curioso. Io, conoscendoti, non penso che una cosa del genere possa essere accaduta, che in un dibattito pubblico uno si metta a parlare di queste cose. No, assolutamente, questa persona non so, o avrà travisato oppure non lo so, insomma, comunque assolutamente non sono questi i miei interessi. A me interessano i temi, diciamo, di politica, di economia e, diciamo, cercare di fare inchiesta seriamente su chiunque, senza distinzione politica né colore, a seconda del tema di cui mi occupo. Tutto qua. Grazie, buona serata. Grazie Francesco da Lucca. Buonasera Francesco. Pronto, buonasera. Dica. Senta, vabbè, innanzitutto complimenti per la trasmissione, perché credo che sia anche difficile mediare, no? su tutte le situazioni. Insomma, combattiamo. Dica. Poi volevo innanzitutto ricordare una persona che è morta ieri, che sarebbe il CT della Nazionale, Ballerini, che era una persona magari anche molto silenziosa, per cui se ne parla anche poco, e si preferisce magari in certi ambiti parlare più magari di un certo Morgan che fa quello che fa, che poi onestamente e personalmente mi interessa. Lasciamo perdere, però lei dice si parla di Morgan e non si parla di Ballerini, per carità, con tutto rispetto per Ballerini. Francesco, di cosa ci vuole parlare? No, volevo solo e semplicemente dire questo, che purtroppo nelle considerazioni che sono state fatte rispetto a Berlusconi, no? Di quello che si vede in internet. Ora, io purtroppo sono uno di quelli che anch'io per curiosità vado a verificare, a vedere, eccetera. E onestamente, voglio dire, credo io, come molti altri ho sentito, eccetera, un certo dubbio, la situazione la lascia, no? Anche se poi io credo che sia esagerato a livello anche politico. Ma qual è il dubbio? Mi scusi Francesco, io non capisco. No, il dubbio qual è? Il fatto che Berlusconi dopo non ha più nessun segno, qual è? Pronto? Ma qual è il dubbio? Non lo capisco. Il fatto che Berlusconi adesso non ha più nessun segno, qual è il dubbio? Non lo capisco. No, i dubbi sono diversi, per come è stato espresso e quali sono i filmati su internet, chiaramente se ne vedono diversi di dubbi, sono stati espressi anche da qualcuno che mi ha preceduto e l'ultimo può essere appunto quello che magari i segni non si vedono, per cui Francesco, lei può avere tutti i dubbi che vuole, però capisce che i dubbi vanno anche corroborati da qualcosa, non da chiacchiere o da ipotesi fantascientifica come quelle di Genchi. Siamo qui alle 20 in punto, TG5. Benedetto XVI contro i sacerdoti che si sono macchiati di abusi, i diritti dell'infanzia violati da alcuni membri della Chiesa, un comportamento che il Vaticano deplora. Nuova farneticante minaccia di Al-Qaeda che incita a colpire ovunque americani, cristiani ed ebrei. Ciancimino, contatti tra Forza Italia e mafia, Alfano agguato contro il governo, Dell'Utri falso e allucinante, Bondi fango prima del voto. Weekend nero in montagna, 8 morti in un video, la valanga sul Monte Cimone che travolge 3 sciatori fuori pista. Ragazza in coma da 4 anni dopo shock anafilattico, aveva mangiato carne adulterata con i solfiti. Al TG5 Claudio Mangini, l'addestratore per il cinema che riesce a comunicare non solo con i lupi ma anche con i rapaci e i cavalli. Bene, TG1. Valanghe killer, 8 morti e decine di feriti nel fine settimana. Il governo, carcere per chi provoca vittime. L'esplosione nella centrale nel Connecticut, rintracciati tutti gli operai, sconosciuta la causa del disastro. Mafia, Ciancimino tira in ballo anche Forza Italia, Alfano vogliono delegittimare il governo che lotta contro Cosa Nostra. L'anziana di Colanti uccisa nel Salernitano, arrestata una coppia, determinante il video della telecamera di sicurezza. Truffe su internet, trappole anche con la scusa di aiuti ad Haiti, mai rispondere alle mail con richieste di dati personali. Interpretare i nostri sogni via internet, ci sono siti fatti apposta ma ognuno sembra spiegarli a modo suo. Il telefonino che traduce la conversazione in simultanea in tutte le lingue è la nuova frontiera della ricerca. Francesco da Lucca, con cui eravamo collegati, prego Francesco. Sì, no, no, io volevo semplicemente dire che di confusione se ne fa tanta, quindi chiaramente è curiosità quella di andare a verificare e vedere certe cose. No, ma lei può verificare quello e che poi vuole, il problema è un altro, è che Genchi per la prima volta queste teorie del complotto, del mistero, queste teorie che in realtà nel caso Berlusconi sono assolutamente e largamente minoritarie rispetto ad altri casi, hanno avuto ospitalità al congresso di un partito. No, questo, ma io questo onestamente non lo condivido assolutamente, e anzi io volevo proprio dire questo, che è un po' pesante tutta quest'aria che tira costantemente questo pressing che viene fatto sulle persone, voglio dire, comuni che, come me, che magari per curiosità vanno a verificare certe cose, poi dal punto di vista politico arrivano delle mine che chiaramente fanno pensare che magari certe cose possono essere anche vere. Quindi secondo me, onestamente, il fatto che se ne parli anche troppo potrebbe essere anche non è un bel volare, ecco, diciamo così. Va bene, Francesco, grazie. Lorenzo da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Telefono a proposito del, diciamo, fatto di Milano, ovvero del Duomo lanciato sul viso del nostro Paese. Ma in realtà non c'è nessun, la cosa incredibile, Lorenzo, poi naturalmente lei può dire quello che vuole, è che non c'è nessun fatto. Questa è la dimostrazione, il fatto che ci sono moltissime persone che ci chiamano questa sera non per parlare della vicenda Genchi, cioè che un ex funzionario, un funzionario ancora di polizia vada a un congresso di un partito, salga sul palco e dica che Berlusconi si è inventato tutto e che in realtà è tutta una messa in scena, perché il punto è questo, secondo me, ma vogliono intervenire invece nel merito della vicenda, spiegandoci che, guardate, su internet ho visto che potrebbe essere che in realtà non è del tutto folle come cosa. Insomma, questo fa pensare che lanciare il sasso poi crea, no, dubbi. E al di là del fatto che poi le cose non sono probabili e non... Guardi, esatto, assolutamente, io ne faccio una questione di dietrologia o di complotto. Parlo da uomo della strada che ha praticato, adesso nel mio caso specifico può far sorridere, un po' di box. Le posso dire che ho fatto un po' di professionismo nella box. Se, come dicono, il referto parlava di 3 denti rotti, un naso spezzato, gli effetti le posso garantire che sono completamente diversi. Poi da lì non ne voglio fare un teorema politico. Però ecco, da semplice uomo della strada, gli effetti visivi sono di tutt'altra specie. Ecco. Lorenzo, ma lei ha visto le cartelle mediche di Berlusconi? No, io ho visto le immagini. Allora, e secondo lei, tra, diciamo, le immagini... Le immagini, io dico che un naso rotto istantaneamente libera, insomma, una certa quantità di sangue, ne parlo per esperienza personale. E dunque? Le sue riflessioni credo, quali sono? Diciamo che non è venuto fuori il sangue che lei, diciamo, si aspettava, da un impatto del genere, non che si aspettava, che si augurava, volevo dire, cioè da un impatto del genere. E dunque nulla, che cosa? Ecco, cioè, per carità. Da Veltroni, chiunque, guarda. Dunque la conseguenza secondo lei qual è? Cioè... Dunque, secondo me la conseguenza è che c'è stata una certa teatralità, magari il danno non era così forte, ecco. Ho capito. Come ci è voluto far credere, ecco. Non credo a quel referto, così lo dico molto sinceramente. Tutto no, per carità, la ringrazio. Niente, grazie. Andy da Verona, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo solamente condividere un mio particolare pensiero. A ogni tornata elettorale vengono sempre fuori queste cose di mafia, sempre solite storie su Berlusconi, ma io sinceramente vedo che è la terza volta che questo paese lo elegge in libere elezioni, quindi o per prendere una battuta di un recente trailer, siamo tutti dei coglioni, oppure magari la gente si è anche stufata. Lei a cosa si riferisce, Andy? Alle dichiarazioni di Ciancimino di oggi, per esempio? Sì, anche quello, ma comunque il solito... Su Berlusconi esistono tante voci, leggende, tutte queste cose che vengono fuori periodicamente, un po' come le stagioni. Ma, sì, però Andy, non è che il fatto che una persona sia stata votata dai cittadini alle elezioni, non è che significa che dopo non si discute di nulla. No, non intendevo questo, è che è risaputo di questa, di problemi giudiziari di Berlusconi, di tutte le sue possibili connessioni, dico possibili perché non è stato ancora acclarato nulla, non mi permetto di dare giudizi, ma io credo che questa cosa abbia a questo punto effetti controproducenti, abbia scatenato una sorta di i fan di Berlusconi, da gente che si mette a favore di Berlusconi anche se non, sì, lo so, ho capito, però io voglio capire lei a cosa si riferisce concretamente di questi giorni di oggi, perché altrimenti questo è un discorso che si poteva fare anche 15 anni fa, a cosa si riferisce? Mi riferisco anche al congresso dei DV, per esempio, dove al di là della dubbia secondo me presenza di Genchi, perché personalmente, appunto, come ha detto anche lei, un servitore dello Stato, funzionario dello Stato, che va lì e fa dichiarazioni complottistiche di questo genere, ma insomma, a me sembra un po' fuori luogo. Grazie, pubblicità. Aldo da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Mi sente? Ah, senta, io non parlerò di Berlusconi, sarà, lei si sorprenderà. Meno male. Senta, io seguo la sua trasmissione quando posso. La ringrazio molto. Questo qui allora è un attestato di stima e di simpatia, però mi consenta con c'è un però e dunque c'è la bacchettata. No, assolutamente no. Lo dicevo scherzo. Tranquillamente a chi mi ha risposto, no? La signora Micol, mi pare che... stasera mi sembra che l'attacco sia stato un po' pesantuccio. Lei dice? Cioè, io l'avrei fatta la telefonata a prescindere dal colore. Per esempio, no, ma lo so, Aldo, per carità, ma lei è molto gentile e anche molto pacato. Può esprimere le critiche che vuole, può esprimere le critiche che vuole, anche corrosive. Scopo, ma senza bisogno di essere troppo accentuativo, no? Cioè, io non devo raggiungere nessuno, dirlo, non no? devo raggiungere nessuno scopo. Dico semplicemente che lo scopo è quello di comunicare serenamente, sì, con il sorriso sulle labbra, insomma, non necessariamente qualche volta. Guardi, più sorriso sulle più qua, sorriso guardi, più con molta stima e con molta simpatia. No, la ringrazio, però più sorriso sulle labbra di questo. Abbiamo scherzato tutta la sera sulle follie che sono uscite fuori dal congresso dell'Italia dei Valori. Per carità, insomma, d'altra parte, veda, forse un congresso più o meno pilotato, secondo me, per esempio, non ho parlato. È una delle pochissime opportunità, sì, che si ha in questa pseudo democrazia o grande democrazia, dipende dai punti di vista, di poter esprimere il proprio punto di vista senza, come diceva De Lussa, senza paura di finire in prigione. Insomma, tutto qua. Va bene, grazie. Aldo, grazie. Una prosecuzione. Grazie. Enrico, sempre da Roma, buonasera. Enrico? Pronto? Sì, buonasera, dica. Buonasera, senta, dottor Cruciani, io l'ascolto volentieri, però noto con una certa difficoltà che lei si sofferma volentieri sulle difficoltà del centro-sinistra. Farebbe piacere ascoltare le stesse cose per quanto riguarda il governo e il centro-destra. Beh, dipende dai giorni, Enrico, comunque l'accontentiamo quando è possibile, l'accontentiamo, non si preoccupi. Grazie. Rino da Pescara, buonasera. Con molta difficoltà ci accontenta. Se vuole le faccio un minutaggio anche. Sì, lei lo dice ironicamente, comunque, io lo dico sul serio. Sì. Ecco, io volevo dire circa le dichiarazioni di Ciancimino. Prego, dica. Ho sentito che molti si sono lanciati in dichiarazioni di inverosimilità. Io non ho detto nulla, per esempio. Non è possibile che le dichiarazioni abbiano un minimo di senso, di verità. Allora io mi chiedo, ma tutta la letteratura che c'è sul nostro primo ministro, anzi io penso che un giorno ci annoieremo quando non sarà più primo ministro di questa Repubblica, tutte le cose che si sono dette, libri scritti, cose dimostrate, cioè, ecco, faccio alcuni riferimenti. La banca Arner di Lugano, in cui lei sa che un ispettore della Banca d'Italia addirittura è andato a fare l'ispezione e poi è stato indagato e l'hanno cambiato, la Banca d'Italia ha cambiato quell'ispettore perché il primo che era andato ad esaminare i conti di questa banca dove c'era accuse di riciclaggio, di denaro sporco, della mafia, e il conto numero uno era del nostro primo ministro. Sarà una cosa grave questa qui, cioè farà pensare, ci sarà qualche dubbio. Su che cosa? Sul fatto che questo nostro primo ministro si ritrova sempre vicino, e cioè, ecco, io la cosa che mi meraviglia è che quando si dice la mafia ha investito... No, però mi scusi, Rino, lei è partito dalla dichiarazione di Ciancimino e siamo andati a fine Svizzera. No, la dichiarazione di Ciancimino, è certo, perché che dicono? Che dicono che praticamente c'è stato un accordo tra Stato e mafia. E allora io quello che... Lei è andato a finire in Svizzera, i conti Svizzera, però. No, cioè, certo, perché si va a finire lì, perché per chi forza. È stato, io le chiedo, chi è stato il più grande investitore immobiliare a Milano dagli anni 70 agli anni 90? Milano 1, Milano 2 non l'ho costruito mica io. Allora? Allora, quando si dice che i soldi della criminalità organizzata in Italia, che governa una metà della nostra nazione, vanno al nord Italia, qualcuno li userà questi denari? Sì, Rino, allora, mi pare che lei, mi pare che lei parta da alcuni assunti, che naturalmente assunti non sono. Uno dei suoi assunti è che le fortune di Berlusconi derivino in parte dalla mafia, così? Certo, dica, dica. No, è così, no? Sì, cioè, sì, lei no, parte io... da questa certezza? No, no, io non parto da una certezza. Io dico che bisogna lasciare anche l'1% di possibilità che si accerti la verità. E certamente la verità non è quello scusi, che gli elettori... Rino, ma mi pare che Ciancimino abbia il massimo dell'udienza possibile. Ci sono titoli dei telegiornali, servizi, articoli sui quotidiani. Non mi sembra che venga nascosto qualcosa. Viene ascoltato in tribunale, ascoltato e interrogato dai giudici continuamente. Sta dicendo da mesi qualsiasi cosa. Qual è, chi vuole occultare cosa? Mi scusi. Dottor Cruciani, c'è anche la dichiarazione di Casini, che non è certamente un elemento politico. Ho capito, ma poi uno potrà giudicare le dichiarazioni di Ciancimino oppure no? Che dice che gli italiani sono offesi da queste dichiarazioni. Ma gli italiani ho capito, ma Casini fa una cose. Casini fa una dichiarazione perché si sente di fare una dichiarazione, ma si potrà criticare o Ciancimino, capito, oppure Ciancimino l'unica reazione che si può avere è aspettiamo prima di dare qualsiasi giudizio. Quello che dico è critico l'inverosimilità, quando le persone dicono è inverosimile, non è possibile. No, siamo nel campo delle possibilità. E può essere possibile una cosa del genere. Cioè che Forza Italia sia nata grazie alla mafia. Per quale motivo non dovrebbe essere possibile? Tutto è possibile, diciamo che se uno guarda le cose dal punto di vista motivo? Se uno guarda le cose dal punto di vista politico, se uno pensa che Forza Italia, se uno pensa che sia possibile che Forza Italia sia nata grazie alla mafia, allora lei pensa che al governo dell'Italia c'è un mafioso. Certo. Lo vede, però lei parte da una certezza per dimostrare questa certezza. Lei dice che è possibile. Va bene, d'accordo. Io dico che è possibile. Le dico, ci sono cose facilmente riscontrabili nel tribunale, si dice bisogna dimostrarle. Il fatto che le casseforti non siano state aperte quando sono andate a fare le perquisizioni, sarà difficile dimostrare no, questo? No, ma ho capito, Rino, è come... vabbè, lasciamo perdere. Eccoci qui, 20:20, 800 24 00 24, Mario, provincia di Reggio Emilia, buonasera. Buonasera, senta, ero a cena, cioè sono ancora a cena, forse mi ero leggermente distratto. Le volevo dire, guardi, che mi sono molto divertito quando praticamente ha fatto ascoltare le due voci, cioè quella di Barbato e della IDV praticamente con Brevas. È stato un pezzo per me fantastico, guardi, è stata una cosa meravigliosa, guardi, è stata... meravigliosa. Le volevo dire praticamente, se posso essere un pochettino più serio, ecco, che credo che l'Italia dei Valori praticamente sia uno di quei partiti che abbia sempre detto che praticamente non c'è libertà di non ci sia praticamente l'Italia la libertà di espressione, ecco, che è tutto quanto praticamente. Non ho capito, scusi, mi può ripetere quest'ultima cosa, Mario, perché la sentiamo un po' male. Non so se mi sente adesso. Sì, la sento. Che vuole dire, Mario? Volevo dire che praticamente proprio l'Italia dei Valori è uno di quei partiti che praticamente ha sempre detto che non ha che in Italia c'è praticamente non c'è libertà di espressione di stampa. Credo che in questi ultimi giorni abbia avuto moltissimo spazio e purtroppo per dire quasi praticamente non molte cose, diciamo così, sensate. Questa è la mia praticamente. Va bene, grazie Mario. 800 24 00 24, buonasera al divino Telma. Maestro, vi salutiamo e benediciamo da Genova, amate pecorelle. Come mai a Genova, divino? Noi siamo a Genova perché siamo impegnati nella raccolta firme a favore della lista Bonino-Pannella, nella quale siamo presenti col Fausto numero 17. Fausto numero 17, che è il numero in lista dove sarà il divino Otelma nella lista dei radicali in Liguria. Senta, certo. Io devo dire innanzitutto che noi l'abbiamo strappata oggi in via del tutto eccezionale alla nostra trasmissione preferita, che è Un giorno da pecora su Radio 2, ma qui si pone un problema. Siccome noi apprezziamo molto Un giorno da pecora, Sabelli Fioretti e Lauro, trasmissione certo. a cui lei partecipa regolarmente, anzi certo. direi ogni giorno, no Divino? Sì, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, Un giorno da pecora inizia alle 13.30. Sì, sì, ma questo lo sappiamo. E il collegamento con noi alle 14.30. Ah, ecco, alle 14.30 c'è il collegamento con il Divino Otelma. Ora, se lei si candida, lei sa bene che fra poco mi sa che dovrà rinunciare ad andare Un giorno da pecora, eh? Sì, siamo consapevoli di ciò, l'abbiamo sempre saputo, era una cosa che davamo per acquisita, per quanto non tutti lo diano per acquisito, perché non essendoci alcun contratto scritto ed essendo per di più la trasmissione satirica, non è detto. Comunque, insomma, noi ci rimettiamo naturalmente alla RAI, alla valutazione RAI. Dei conduttori che al momento beneficiano di un buon ascolto, e che comunque possono naturalmente fare ciò che credono. No, vabbè, non saranno, credo, loro a decidere. No, ma infatti non dipende loro da loro. Sono disperati, credo, per il fatto che lei fra poco li dovrà lasciare, se conferma sì, la sua candidatura. Dobbiamo forse lasciare provvisoriamente, però è molto probabile che riappariremo in un altro programma, questa volta di Radio Monte Carlo. E come mai? Ma perché Radio Monte Carlo ci ha gentilmente richiesto una presenza, adesso non vogliamo anticipare troppo perché sì. sarà una sorpresa, ma comunque sì. sarà una cioè presenza. Cioè lei passa da Radio Rai a Radio Monte Carlo, questo ci vuole dire. No, ma una cosa non esclude l'altra. Cioè ah, beh, certo. No, anche perché a Radio Monte Carlo saremo presenti una volta alla settimana, mentre Un giorno la pecora è 5 tutti giorni, i giorni, certo. sono cose diverse. Senta, ma perché lei parla, diciamo, insomma, dice noi? Noi chi? Ma gli italiani sanno bene che il Divino Otelma usa il pluralis maiestatis, quindi d'altra parte in passato il pluralis maiestatis lo usavano gli stregoni vaticanensi, sì. e quindi a maggior ragione, visto che loro ritenevano di essere i vicari di Dio, noi che Dio lo siamo, quindi ci sembra logico che usiamo il pluralis maiestatis. Perfetto. Divino, lei afferma di credere nella reincarnazione, di incarnare Dio, diciamo, no? È per questo che fa uso del pluralis maiestatico, e di essere stato anche precedentemente un sacerdote di Atlantide, un faraone, donna d'Egitto e sacerdote romano, eccetera, eccetera. Ora voglio dire, il collegio dei quindecemviri sacris faciundis, cioè in pratica i magistrati sacri addetti all'interpretazione dei libri sibillini. Ecco, con tutte queste cariche non si può dire, diciamo, con tutte, come le chiamano, come si possono chiamare? Con tutte queste. Si possono chiamare, diciamo, presenze culturali, per esempio. Esatto, con tutte questi titoli, perché si candida alla Regione Liguria a fare il consigliere regionale? Lei che vive, come dire, in una dimensione che noi possiamo solo immaginare. Ma la domanda è interessante, certamente interessante, però chi ci conosce bene sa che noi già nel lontano 1975 sì. acquisimmo la tessera del Partito Radicale, quindi sono più di 30 anni di questa nostra ultima vita terrena sì. e in attesa della prossima che noi militiamo o comunque sosteniamo il Partito Radicale di Marco Pannella e di Emma Bonino, quindi sì. noi riteniamo che il fatto di credere nella reincarnazione, il fatto di credere ad una vita oltremondana non significhi che dobbiamo abbandonare la vita ed abbandonare la terra al suo destino, e certo. peraltro sarà un destino non troppo allegro, ma questo è tutto un altro discorso. Senta, siccome Tinto Brass, che sarà candidato anche lui in liste radicali, non credo in Liguria, forse sì, non lo so, vedremo naturalmente. No, non è in Liguria. In Lombardia e in Veneto, forse, non ricordo bene. Sì, sicuramente non è in Liguria. Allora, siccome quando abbiamo avuto Tinto Brass come ospite ci ha detto che il suo programma era quello incentrato soprattutto sul sesso, lei invece ha un punto del suo programma per la regione Liguria nelle liste radicali? Qual è? Ma sì, i punti in realtà sono più d'uno. Noi porteremo avanti le istanze che già molti anni fa presentammo, fondando nel lontano 1991 il Partito Europa 2000, e portiamo avanti esattamente le stesse istanze perché sono parte viva, diciamo, della storia del Partito Radicale. Okay, per esempio, ma al di là della storia del Partito Radicale, l'abolizione della legge Merlin, la legalizzazione della prostituzione in tutta Italia, e per quanto riguarda la Liguria, noi vogliamo che in tutta la Liguria si aprano le case dell'amore e i parchi dell'Eros, perché i liguri hanno il diritto alla felicità. Divino, la mi scusi. La felicità non può certamente derivare da Biasotti o da Burlando, che sono un po' come Gianni e Pinotto. Ma insomma, Divino, lei su queste cose è assolutamente vicino al maestro Brass. No, a noi pare che il maestro Brass casomai sia vicino al Divino. Ah, mi scusi, no, per carità, non volevo dire niente. Senta, se Brass dice le stesse cose che figuriamoci. Noi ne prendiamo atto volentieri, d'altra parte a noi Brass è simpatico, non ci crea problema, insomma. Assolutamente. Senta, Divino, io adesso ho una cosa un po' terrena, che è la pubblicità. Certo. So che a lei magari queste cose non piacciono. Beh, no, la pubblicità è importante. Come no. Torno al Divino Telma, che è in collegamento con noi, 800 24 00 24, che è candidato con le liste radicali al 17° posto in lista in Liguria. Divino, con quali possibilità di essere eletto? Me lo dica, anche se, per carità, l'elezione per lei penso che sia un dettaglio rispetto a tutto il resto. Sì, no? In effetti è un dettaglio. Intanto va detto che il numero 17 l'abbiamo scelto noi, naturalmente. Ah beh, non c'è dubbio. L'abbiamo scelto perché il numero 17 è un numero fausto, e quindi ci sembrava la cosa più saggia. Mentre tutti pensano il contrario, per lei è un numero fausto. No, è fausto. Su questo non vi sono dubbi. È un numero che porta tendenzialmente fortuna. Quanto poi alle possibilità di successo della lista radicale, questo si vedrà. No, si le sue vedrà. Possibilità. Non è impossibile, vincere in Liguria, perché in Liguria le liste radicali avevano già raggiunto con facilità il 2,5%, quindi passare dal 2,5% al 3% non è impossibile, si tenga conto poi che il traino di Marco Pannella e di Emma Bonino, insomma, qualcuno ricorderà che Emma Bonino era arrivata anche all'8%. Sì, no, certo. Quindi senta, diciamo, ma è vero che lei impossibile. È vero che lei una volta al Congresso Radicale portò una mozione streghe per la libertà, perché lei ha detto prima io vorrei riaprire le case chiuse, eccetera, e va bene. Poi c'è anche questa storia delle streghe, un'altra cosa su cui lei punta molto, no? Cioè, che significa? Questa è infatti una delle ragioni per cui noi appoggiamo convintamente le liste Bonino-Pannella, non soltanto in Liguria ma anche nel Lazio. Sì. Una delle ragioni è proprio questa, che a novembre noi a Chianciano, al Congresso Nazionale di Radicali Italiani, abbiamo elaborato e presentato, raccogliendo le firme di sottoscrizione, e fra i primi hanno firmato personaggi illustri, in primis Marco Pannella, e poi molti altri, un documento che appunto ha per titolo Con le streghe per la libertà, che è anche facilmente consultabile andando nel sito di Radicali Italiani, ci sono tutti i testi delle mozioni approvati a Chianciano, e chi ha voglia e tempo vada e troverà proprio questo documento. Che è un documento con grande entusiasmo, devo dire. E come mai con grande entusiasmo? Cioè, mi sembra che in questo documento ci sia una sorta di battaglia contro la campagna denigratoria che c'è verso gli occultisti, o sbaglio? È esattamente così, c'è questo, c'è un alto là rispetto alle manovre delle forze reazionarie e clericali e alle forze del monopensiero, ad esempio i vari Bruno Vespa e via dicendo. In sostanza, nel documento, che andrebbe letto appunto con molta attenzione, si chiede allo Stato di essere neutrale. Noi vogliamo uno Stato laico, non uno Stato clericale. Ma che c'entrano le streghe, però? Che sia dipendente, come attualmente è, dallo stregone alemanno, come anni fa era dipendente dallo stregone polacco. E chi è lo stregone alemanno? Ah, il Papa, lo stregone alemanno. Sì, quello che viene chiamato anche Papa, ma che dal nostro punto di vista è semplicemente una fra le tante possibili opzioni dell'area culturale religiosa e magica. Lei lo chiama lo stregone bavarese, anche una volta l'ha chiamato, lo stregone alemanno, lo stregone bavarese. Stregone bavarense o anche stregone alemanno, è sempre lui, insomma. È sempre lui. Senta, ma lei non mago, diciamo ma che lo stregone alemanno non possa dire quello che vuole, ci mancherebbe, noi siamo tra i primi a difendere la libertà di parola, di pensiero e di azione dello stregone. Però naturalmente bisogna che questa libertà venga riconosciuta a tutte le forze culturali magico-religiose, non soltanto a una. Ah, ecco la mozione Streghe per la Libertà. Senta, Mago, ma molti si domandano, lei quanti anni ha? Si può chiedere al divino oppure no? Ma noi abbiamo migliaia di anni, abbiamo tanti, tanti anni. Perché qualcuno scrive che lei è nato nel 49. Delle tante vite, quindi non è il caso di dilungarci, diciamo, sugli aspetti prosaici. No, per carità, diciamo, però divino, qualcuno dice che lei di anni, certo. Divino, qualcuno dice che e lei è nato quattro lauree, va bene. In che cosa? Scienze politiche. Sì. La prima, poi? Storia, la seconda. Sì. Terza. Università di Genova. Invece alla Sapienza abbiamo preso anche scienze storico-religiose, sì, triennale, e scienze storico-religiose specialistica. Vabbè, allora tre lauree, due lauree e mezzo. A Milano abbiamo conseguito anni fa il diploma specialistico dell'ISPI, l'Istituto di Studi Politici Internazionali pure. Di Clerici, famosissimo. Senta, come non lo conosco bene. Ministero degli Esteri. Senta, 1949, qualcuno dice che il suono di nascita è questo, 1949, è vero? Ma ognuno naturalmente è libero di dire ciò che crede, di pensare ciò che crede. Noi non perderemo del tempo a smentire. Non è detto però che i dati che per esempio si trovano su Wikipedia, che ci ha dedicato gentilmente una pagina già siano da molti corretti, anni, siano corretti. Non è detto che quei dati siano proprio esatti al 100%, va bene, come senta, anche non sono esatte al 100% molte altre cose che si trovano sempre su Wikipedia. No, per carità. O anche sulla pagina che ci ha dedicato Introvigne, la chiesa da noi fondata anni fa, la chiesa dei viventi. Senta, venerabile, appunto, però io vorrei chiudere in questo modo, ringraziandola della sua partecipazione qui alla Zanzara, dove sarà sempre, dove le porte sono sempre aperte anche durante la campagna elettorale, perché noi ce ne freghiamo della par condicio e di queste cose qui. Siete intelligenti. Allora, noi vorremmo solo dire una cosa, se ci è consentito. Però un attimo solo, certo, divino, certo. Io volevo chiedere questa cosa. La vogliamo fare una bella profezia sulle elezioni regionali? Lo so che le chiedo una cosa un po' banale di fare una profezia, però spesso anche dai nostri amici di Un Giorno da Pecora lei si avventura in qualche profezia. Allora, per esempio in Puglia, tra Vendola, Palese e la Poli Bortone, chi vince secondo le previsioni del divino? Ecco, guardi, siccome noi le profezie e i vaticini, come certo comprenderà, non li possiamo improvvisare, possiamo per il momento, in assenza di dati che ancora non abbiamo, possiamo dire che noi prevediamo una avanzata del centrodestra a livello nazionale, che però non sarà un trionfo, sarà avanzata ma molto... Ecco. Direi contenuta, senza stravincere. Ecco. Questo è quello che possiamo dire in al momento. In Puglia possiamo aggiungere una cosa, perché anche quella l'abbiamo già resa nota. Sì. L'altro giorno ci siamo trovati dinanzi a Un Giorno da Pecora alla Poli Bortone, e alla Poli Bortone candidata in Puglia noi abbiamo profetizzato una sonora sconfitta. Non credo che l'abbia presa molto bene, ma insomma la vita è così. Certo. Si possa e dunque è inutile che le chieda una profezia sul Lazio, dove tra Polverini e Bonino lei è in conflitto di interesse. Lei è in conflitto di interesse qui. Sia dell'una che dell'altra candidata, allora certamente formuleremo un vaticinio anticipo rispetto alla data naturalmente delle elezioni. E va bene, divino, allora io dico una cosa. Noi vorremmo dire una cosa, se è possibile. No, un attimo solo, però, divino, ecco. io direi di rimandare ad un'altra puntata della Zanzara, perché era una questione che riguardava Mina Welby, veramente. Ah, Mina Welby poi ci compra il carità, noi ci abbiamo Massimo. A Genova mercoledì, quindi se qualcuno interessa. Allora, mercoledì il divino Telma con Mina Welby. immagino. Sì, alla biblioteca Berio. Alla biblioteca. Ci sarà un'interessante presentazione del libro del marito della, di Mina Welby, ed è una giusta causa, quindi noi informiamo gli interessati. Va bene, benissimo, divino. Senta, allora, facciamo così. In campagna elettorale, siccome noi, ripeto, un po'... insomma, un po' di nascosto, ma cerchiamo certo. sempre di aggirare questa par condicio, lei ci farà qualche vaticinio, qualche intervento per ravvivare un po' questa campagna elettorale, che senza il divino Telma rischia di essere una roba un po' mortifera. Ma noi siamo senz'altro a vostra disposizione. Sempre che certo. Per carità, non vogliamo togliere il mago Telma, e mago per carità, il divino Telma da Un Giorno da Pecora, ma se la sua partecipazione a Un Giorno da Pecora, secondo me sarà così, dovesse essere sospesa, insomma, per il periodo della par condicio. Ma lo diamo per scontato anche noi che sarà sospesa. Certo, certo. Al 99% certo. certamente sarà sospesa, ma questo l'abbiamo sempre saputo, non è che sia... No, certo. Ma va bene, divino. Bonino Pannella, questo è altro. Divino, buonasera. Benediciamo voi tutti. Ma i divini mangiano, il divino Telma mangia la sera? Sì, ma frugalmente, una ciotola di riso... e poco altro. Una ciotola di riso addirittura, così poco? Sì. Va bene, ma sta già poi, mangiando, no? Poi magari potremo organizzare, se lo gradite, più avanti un bel rito magico collettivo per la fortuna per i vostri ascoltatori. Certo. Beh, perché no? Ci si può pensare. Buona serata, okay. Intanto la ciotola di riso, mi raccomando, aggiunga qualcosa. Sì, aggiungeremo dei pezzettini di carote che abbiamo già predisposto, e anche una bella zucchina. Benissimo, buona serata, mago, questo mago, mi scusi, divino. Vi benediciamo. Grazie. Tullio D'Arieti, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. È stato un piacere ascoltare il divino Telma, è sempre così una sorpresa, è sempre una sorpresa, dice sempre. E poi ho apprezzato molto quando gli ha fatto la domanda sul chi vince, perché insomma... uno che c'ha questi poteri qui, ha soprattutto queste cariche, queste onorificenze, appunto, questa vita non può che azzeccarci, insomma, no? Appunto, invece vabbè, comunque insomma, io sono tornando al motivo per cui ho chiamato, io sono un delegato dell'Italia dei Valori, per la provincia di Rieti in particolare. E, insomma, ho apprezzato molto che comunque lei nella sua trasmissione abbia fatto ascoltare alcuni brani, no? Però io volevo così altrettanto bonariamente dire che insomma abbiamo anche parlato di cose abbastanza interessanti, forse un po' desuete, no? Qui in Italia, tipo la legalità, tipo la difesa della Costituzione, insomma, queste cose un po' apparentemente sorpassate. E poi volevo dire, tra le altre cose, e in questo le volevo porre una domanda, no? In ogni caso, a prescindere dal fatto che ognuno si assume responsabilità di quello che dice, no? Anche all'interno di un congresso ognuno è quello che è, non è che, anzi, in questo ci sono delle persone particolarmente esuberanti, è un fatto caratteriale. Per esempio? Non, assicuro che non tutti siamo così, insomma. Per esempio, però, secondo lei chi è stato esuberante? Beh, il nostro amico Barbato sicuramente è una persona esuberante, insomma, voglio dire, nel bene e nel male, questo non credo che sia in discussione, ma al di là di questo... Lei dice che io ho dato l'impressione di un congresso dell'Italia dei Valori che era una sorta di cabaret, e invece si è parlato anche di cose serie. Forse un pochino sì, ho avuto questa impressione, spero ma di noi vogliamo prendere sempre la parte più gioiosa e più ridanciana questo e più divertente della politica, se no altrimenti con le discussioni questo seriose molto, devo dire. Ci annoiamo, no, e la gente spegne la radio. Sono i dolori del giovane morte, che la notte tutto solo si diverte. Roberto può fare qualsiasi cosa, perché è poesia pura. Roberto è un uomo fantastico, di una intelligenza, di una genialità. George Clooney, che è una persona fantastica, fantastica. Sì. Poi Nelson Mandela. Sono stato a Città del Capo a trovarlo. E insomma, Nelson Mandela è la quintessenza di quello per cui ho impegnato la mia vita. E anche Tom Cruise. Con Tom Cruise è stata una persona che ho conosciuto, col quale siamo rimasti in rapporto. Cardinal Martini è un uomo dietro i cui occhi vedi una prateria. Veramente un oceano da poter osservare. A New York a cena a casa di Martin Scorsese. Martin Scorsese è un uomo, diciamo, visione non solo del cinema ma della vita, molto affascinante. Ma soprattutto l'ore del giovane morte, piange sempre e sorride. Guardate che non è un montaggio preso da tante trasmissioni, sono le persone, gli amici elencati da Veltroni ieri durante la trasmissione condotta da Barbara D'Urso su Canale 5. D'altra parte c'è chi conosce certe persone e lo dice in pubblico, c'è chi certe persone le conosce ma non sbandiera queste amicizie o presunte tali davanti al grande pubblico. Eravamo con Tullio D'Arieti, prego Tullio. Sì, Cruciani, grazie, io volevo fare una domanda, no? La domanda è, comunque un congresso è indice di una democrazia interna, insomma, no? Perché comunque si mettono, vengono tutte le persone, tutta Italia, anche un momento in cui si sentono, ecco, ci si unisce su delle idee comuni e di per sé una cosa positiva, insomma. Che ne dice lei dei partiti o quelli che si autodefiniscono tali che invece di congressi non ne fanno proprio? Guardi Tullio, ci sono certe democrazie, per esempio negli Stati Uniti, dove i congressi si fanno ogni 4 anni. Per cui il partito può essere un partito con le tessere, con i congressi, diciamo tradizionale, oppure un partito più leggero. Per cui non esalterei né un modello né quell'altro. La ringrazio. Francesco da Roma, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Senta, volevo intervenire sulle affermazioni che ha fatto il dottor Genchi, funzionario consulente anche Telecom, se non ricordo male, insomma, custode di tanti segreti d'Italia. Io mi domando se le cose che dice Genchi siano suffragate da poi, non so, dei segreti che custodisce, magari alle cartelle cliniche, così come aveva tante giornate di cui si è parlato per tanto tempo sui giornali. Io so soltanto che il dottor Genchi è sospeso dalle sue attività dal marzo del 2009 e ad oggi non è ancora nel pieno delle sue funzioni. Io mi domando che l'operazione ha avuto soltanto il successo di generare ancora una volta la cultura del dubbio. Le cose sono dimostrate dagli interventi dei precedenti ascoltatori, i quali non hanno parlato dell'intervento di Genchi, ma hanno messo in dubbio addirittura la statuetta sulla faccia di Berlusconi. Cioè questo, guarda, no, Francesco, guardi, anche secondo me è una cosa incredibile non solo la presenza di Genchi sul palco di un partito politico, per carità, ripeto, questioni sempre di opportunità, non di proibizione. E poi c'è sempre la solita cultura della dietrologia, del complotto dietro tutti questi interventi, in particolare quelli di Genchi. Valentino da Bologna, buonasera. Buonasera. Dica. Lei, Cruciani, è formidabile, perché fa questi stacchetti incredibili e poi riesce a trovare fuori degli argomenti, che è una cosa fantastica. Io Valentino, adesso non mi faccia arrossire e mi dica. No, io guardo proprio, non sono mai sentirie, ma devo dire, in effetti a volte rido anche molto. Ascolti Cruciani, io vorrei ritornare a una decina di giorni fa, quindi c'è l'intervento di Guzzanti, dell'onorevole Guzzanti, sì, che mi piacque molto. Per dire questo, che vedo oggi, no, in questo abbraccio mortale, secondo me mortale, a tenaglia proprio, di Pietro al PD, potrei fare una profezia di sventura, cioè oggettivamente secondo me il PD è talmente messo male che affidarsi alle cure di Pietro è una cosa incredibile, ma in parallelo c'è quell'altra tenaglia, secondo me, che è quella di Bossi su Berlusconi. Cioè, io non so come la pensa lei, però io sono un vecchio socialista, magari incurabile, insomma, non mi do pace da certo punto di vista, però quando penso che tutti sbandierano la Seconda Repubblica come la soluzione di tutti i mali causati dalla prima, e io non so lei, però io vedo un parallelismo incredibile, cioè siamo messi ancora come prima, se non peggio, cioè il potere di interdizione e di come posso dire, proprio di catenaccio che hanno i piccoli partiti rispetto ai grandi è esattamente... Sì, Valentino, c'è una bisogna riconoscere che rispetto per esempio alla situazione del 2006 o anche rispetto alla situazione del 2001 una differenza c'è, diciamo, la trattativa di solito per quello che riguarda il governo è tra le anime del PDL che sono più o meno due, almeno quelle più visibili, e la Lega. E nel 2001 e nel 2006 per i governi di centrodestra prima e di centrosinistra poi insomma i margini di trattativa per un partito del 2-3%, del 4, del 5 erano molto più ampi. Grazie. Ivano da Pescara, buonasera. Sergio da Napoli. Salve dottor Cruciani. Dica. Mi perdoni innanzitutto l'emozione perché non è mia abitudine telefonare, ma comunque volevo intervenire in merito alla presentazione alla regione Liguria, se ho capito bene, del mago Telma. Sì. Diciamo la mia, ho acceso la radio adesso, io la sento spesso, purtroppo sempre di ritorno quando arrivo a casa alla fine dell'ufficio, non l'ho sentita dall'inizio l'intervento. Ma di, il divino l'ha sentito? Il divino non tutto. Non tutto, solo non la tutto. Seconda parte. La seconda parte. La prima cosa volevo chiederle una cosa. Per quale partito che non ho sentito si è presentato? Per i radicali. Per i radicali. Allora le voglio dire, diciamo, una mia sensazione. Se oggi in Italia siamo arrivati a, diciamo, a fare in modo che vengano presentati delle persone come rappresentanti del popolo italiano di tale genere, io mi sento... No Sergio, non mi offenda il divino, per no, carità, no, non no, mi offenda no, il divino, è intoccabile, il divino è intoccabile. È una mia idea, sicuramente non sarà la sua, anzi lei è stato un signore per me, dico, ma come si fa a far sentire, a far ascoltare agli italiani, no, il maestro, che il presentano per la per, ho capito, ma deve essere anche votato italiano. Deve essere anche votato il divino, cioè bisogna prendere dei voti per entrare al consiglio regionale. Arrivo all'origine. Sì. Per essere votato deve presentarsi una lista. Lei trova inconcepibile, inconcepibile il fatto che qualcuno possa mettere in lista il mago, il divino Telma. Questo che io non riesco ancora a capire. Guardi, non fosse altro che persone capaci in Italia che vogliono rappresentare il popolo italiano, nelle idee non ce ne sono. Vabbè, guardi, Sergio, io non posso dire nulla contro il divino perché per me è assolutamente intoccabile. D'altronde la prima cosa che ci ha detto, la seconda sull'occultismo e sulle streghe, insomma, c'è da discutere. La prima cosa, cioè che si vuole battere per l'amore, per le case chiuse, ci trova perfettamente d'accordo e dunque, per carità, viva il divino Telma. Luca da Parma, buonasera. Buonasera a lei, Cruciani. Dica Luca, siamo quasi in conclusione, deve essere molto breve. Io sarò sinteticissimo. Io volevo intervenire relativamente alle dichiarazioni oggi di Ciancimino e a tutto quello che... Un flash, Luca. Rapidissimo. Ricordiamoci che anche Andreotti e Mannino avevano ricevuto uguale trattamento e dopo 17 anni Mannino abbiamo avuto dei riscontri totalmente opposti. Sì, ma Ciancimino non ha accusato nessuno. Ha detto che Forza Italia è una sorta di emanazione della mafia, è nata per volontà della mafia o con l'appoggio della mafia, non lo so. Va bene, dobbiamo chiudere. Ivano da Pescara, Francesco dalla provincia di Milano e altri, ci sentiamo, siamo solo all'inizio della settimana, se vogliono domani sempre 18:30 con la Zanzara. Ciao. L'unica cosa che bisognerebbe evitare è quel tantinello di ipocrisia. Per esempio, noi ci ricordiamo, perché qui abbiamo le voci e le parole che cantano. Veltroni nel 2007, quando prese in mano il partito, forse addirittura nel primo discorso a Lingotto, forse dopo, non lo ricordo, cosa disse? I leader politici devono andare poco ai talk show. Non dovete aspettare le interviste, anche perché io ne farò pochissime in televisione, perché penso che meno si va in televisione ai talk show e meglio è per un uomo politico.